L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta. Questa settimana il pianeta dell'agricoltura. Periodo di riferimento primo trimestre 2011, diffuso il 10 giugno 2011. Nel primo trimestre del 2011 il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2000, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del primo trimestre 2011. Si rilevano andamenti congiunturali positivi del valore aggiunto dell'agricoltura, più 2,3%, dell'industria 0,1% e dei servizi 0,1%. L'agricoltura è in grado di offrire opportunità occupazionali a 250.000 lavoratori nei prossimi 10 anni. E quanto emerge da un'analisi resa nota dal delegato nazionale giovani della Coldiretti, Vittorio San Giorgio, nel corso dell'assemblea dei giovani Coldiretti, affollata da 2.000 imprenditori agricoli under 30. Nel 2010 è tornata ad aumentare l'occupazione nelle campagne, con un più 2%, che si contrappone al meno 3% fatto segnare dall'industria. Vittorio San Giorgio al microfono di Alessandra Schepisi. Noi è con grande piacere che riusciamo a dire che oggi diamo un contributo al nostro paese dove si genereranno nei prossimi 10 anni 250.000 posti e lo facciamo in un momento di crisi assoluto e il settore che determina tutto questo è l'agricoltura. L'Italia nel 2010 ha superato la Francia ed è diventato il primo produttore mondiale di vino. Lo ha annunciato la Coldiretti commentando i dati definitivi sulla vendemmia 2010 resi noti dalla Commissione europea. Dati che accreditano l'Italia di 49,6 milioni di ettolitri contro i 46,2 milioni della Francia. Al microfono di Paolo Piacenza commenta Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Questo è un sorpasso importante perché comunque rappresenta una leadership, un primato che poi si concretizza anche in quello che è però il livello delle esportazioni. Infatti vediamo che le nostre esportazioni nei primi 2 mesi dell'anno sono cresciute del 15% e cosa importante, c'è stato un altro sorpasso: gli Stati Uniti hanno sorpassato la Germania come prima destinazione del vino italiano, quindi anche qui un mercato che si muove è una cosa interessante. Sono questi gli ultimi dati che arrivano dal settore dell'agricoltura italiana negli ultimi mesi. Aumenta il valore aggiunto in agricoltura, aumenta l'occupazione, aumenta la produzione di vino. Insomma, sono dati confortanti, almeno apparentemente. Visti da dentro, è davvero così? Mario Guidi, presidente di Confagricoltura. Certamente è confortante dal punto di vista delle performance produttive. In realtà noi e la Francia ci giochiamo un primato tutti gli anni in termini di produzione. Tuttavia l'attenzione maggiore deve essere rivolta al tema economico, ovvero in termini di valore. Do un dato che è esemplificativo. L'Italia esporta 20,6 milioni di ettolitri per un valore di 3,9 miliardi di euro. La Francia, che esporta solo 3,5 milioni di ettolitri, esporta per un valore di 6,3. Quindi vuol dire che la nostra capacità di valorizzazione delle nostre produzioni è ancora piuttosto lontana dalle performance francesi. Allora, se da un lato possiamo essere contenti o soddisfatti che i nostri produttori investano, che i nostri produttori abbiano una capacità produttiva elevata, questo significa che dobbiamo lavorare di più sulla valorizzazione. Molto è stato fatto in questi ultimi anni, ma c'è ancora molto da fare. Se noi guardiamo ai dati che arrivavano dall'Istat, anche qua i vostri comunicati successivi alla diffusione di questi dati dicevano chiaramente: registriamo il dato positivo, ma resta un divario con gli altri paesi, restano alcune problematiche. Certamente, anche in questo caso il dato è sicuramente positivo. L'agricoltura si dimostra ancora una volta in controtendenza con altri settori. C'è un dato positivo, ma a livello delle singole aziende agricole rimane uno stato di sofferenza generato dalla capacità di produrre reddito, soprattutto nei confronti della comunità europea, che invece ha performance reddituali molto più rilevanti. Il dato 2010 ci riporta una comunità europea con un indice dei redditi agricoli del più 11-12%, e un indice a livello di Italia di un meno 3,5. Quindi evidentemente c'è un gap molto rilevante. Un gap colmare. Che si può, esatto, colmare come? Cosa bisogna fare? Lavorando, certamente in questi anni noi abbiamo lavorato sulla valorizzazione delle nostre produzioni, sulla tipicità, sulla capacità di aggredire i mercati, però siamo poco competitivi in termini di costi di produzione o di sistema Italia. Il tema, non vorrei essere scontato ancora una volta, ma è il tema della burocrazia, il tema dei tempi per attivare nuove attività, il tema del lavoro, sono temi che devono essere affrontati con rapidità. Certo. Poi per esempio nel settore del vino, tornando un attimo indietro, i contributi comunitari alla promozione, che sono fondamentali, sono destinati all'internazionalizzazione delle produzioni. Io ho sempre detto che il mercato del vino è il mercato del mondo e quindi va bene, ma il primo mercato italiano della produzione italiana è l'Italia. E allora noi dobbiamo avere la possibilità di promuovere il nostro vino anche sulle nostre tavole. Senta, a proposito di Europa, qui tra poco il Parlamento europeo si troverà ad esprimersi sulla riforma della PAC, sul tema piano rilevante, europeo. Sul piano tema europeo. Rilevante questo, io sto partendo per Parigi per partecipare a un G20 agricolo in cui avremo il quadro delle dinamiche mondiali delle politiche agricole comunitarie. La politica agricola comunitaria europea non può non tener conto della situazione mondiale, che è una situazione che porta l'agricoltura ad essere più focalizzata sulla capacità produttiva, sull'attività imprenditoriale vera e propria, perché ci sarà sempre più bisogno di agricoltura nel mondo. È molto importante il rapporto con il Parlamento europeo, perché ora più che in passato la politica anche a livello preeuropeo deve dare le indicazioni, non può essere lasciato tutto alla sola Commissione. Questo significa, se guardiamo appunto a livello, come l'aveva ampliato lei la questione, a livello mondiale, significa anche molta ricerca, molto sviluppo, è anche sostenibile. C'è bisogno di investimenti anche qui. Fondamentale. Proprio l'altro giorno partecipavo ad un convegno sull'innovazione, da cui emergeva che l'Italia investe solo lo 0,9% del proprio, chiamiamolo PIL agricolo, nei confronti di un Regno Unito che investe il 5,9. In Italia spendiamo 1 miliardo di euro in ricerca e quindi innovazione successiva, un valore che potrebbe sembrare rilevante, ma che evidentemente o perché è mal indirizzato, e qui bisogna lavorare di più affinché la ricerca e l'innovazione siano funzionali ai bisogni delle imprese, oppure comunque troppo poco per garantire uno sviluppo a un settore che l'Italia può ben considerare strategico. Noi abbiamo una delle migliori agricolture non solo europee ma a livello mondiale, anche sul tema dell'agroenergia per esempio. Anche sul tema dell'agroenergia, esattamente. E c'è molto da fare anche lì, a dire il vero. Sì, c'è molto da fare anche lì, avendo una posizione molto più interessata a quello che vuol fare questo paese. Se questo paese si vuole dotare di una politica sulle energie rinnovabili, ad esempio, in agricoltura possono essere utilizzati quelli che noi definiamo sottoprodotti agricoli, ovvero prodotti non destinati all'alimentazione umana o zootecnica, che oggi hanno uno scarso valore di impiego o un ridotto valore di impiego in termini agricoli, ma che potrebbero essere convenientemente usati nella produzione di energie rinnovabili, senza, diciamo così, modificare l'equilibrio tra il food e il feed. Quindi occorrerebbe una vera e propria politica su cui costruire delle strategie per un sistema paese vocato all'agricoltura. Insomma, l'agricoltura italiana tira, ma è pur sempre in difficoltà. Che cosa manca e che cosa si può fare? Lo ha detto anche Guidi. Ci vogliono, tra l'altro, ricerca e sviluppo per la sostenibilità, per riuscire, come cantavano tanti anni fa quel gruppo di artisti inglesi riuniti sotto l'etichetta Band-Aid, Feed the World, per nutrire il mondo. E allora, di ricerca e sviluppo hanno deciso di interessarsi 13 fondazioni di origine bancaria, riunitesi nel progetto AGER, che significa agroalimentare e ricerca. In campo hanno messo uomini e mezzi per quasi 30 milioni di euro. Perché? Lo chiediamo a Carlo Mango, direttore dell'area ricerca della Fondazione Cariplo. Il progetto Ager nasce da un'analisi sui fabbisogni di ricerca, nell'ambito della quale le fondazioni di origine bancaria, già molto impegnate nel sostegno alla ricerca scientifica, hanno pensato di identificare dei fabbisogni importanti in un settore chiave per l'economia del nostro paese, che al fine di garantire il mantenimento e l'incremento dei livelli di competitività appunto delle nostre produzioni, necessita di ricerca per qualificare i prodotti, ricerca per produrre di più, ricerca per sostanzialmente produrre cibi sempre più sicuri. Ager interviene in quattro ambiti specifici che sono scaturiti da un'analisi sui fabbisogni di ricerca, di anticipazione ai fabbisogni futuri su medio periodo. Questi sono sostanzialmente quelli legati alla ricerca nell'ambito del cerealicolo, quindi sul grano duro e sul riso in particolare, ricerca legata al tema delle coltivazioni, comunque della frutta, in particolare con due filoni di ricerca, uno legato alla produzione del melo e uno legato alla produzione del pero. Un filone ulteriore, che è quello che oggi registra un ampio sviluppo, che è quello dei prodotti di quarta gamma, ovvero quelli pronti, fresh cut, pronti al consumo per intenderci, che troviamo anche nella grande distribuzione, che stanno avendo un successo importante. E infine, unico ambito ad oggi di intervento nel settore proprio del zootecnico, la filiera appunto del suino. Dunque, è partita nel 2009, quindi siamo come già... Come impostazione. Ecco, come impostazione. A che punto del percorso allora, si è? I progetti sono tutti avviati, attendiamo i primi risultati nel corso almeno del prossimo biennio, se non i prossimi tre anni, quindi in vista anche di quelle che sarà, proprio a ridosso dell'Expo, ecco, se uno volesse anche legare questo tema, che è possibile in realtà, appunto perché l'Expo avrà come suo centro proprio quello dell'alimentazione e del cibo, quindi... Ecco, l'idea è proprio quello, in vista dell'Expo, di far vedere magari attraverso l'Expo come certi cibi, magari cibi che ognuno mangia nei propri paesi di origine, possono essere prodotti in maggiori quantità, meglio e in modo più sicuro. Questa è un po' l'idea. Non nascondo che abbiamo avuto delle dichiarazioni di interesse da parte di consorzi stranieri che vedono un po' in Ager un'opportunità estremamente singolare, quindi stiamo selezionando un po' quelle che potrebbero essere delle partnership che speriamo di annunciare nei prossimi mesi. No, ce l'auguriamo, perché poi è un tema appunto di grande importanza per tutto il mondo, perché è vitale. Senta, tornando al tema invece che costituisce l'apertura di questo programma, e quindi questi dati positivi che affiorano rispetto all'agricoltura italiana, come ce li si può spiegare? Quello che possiamo vedere noi è sicuramente la relazione tra innovazione e ricerca e apertura di nuovi mercati, o comunque incremento delle produzioni. Oggi, anche per dei mutamenti nelle abitudini alimentari, un discorso anche di un segnale sempre più percepito e declinato dall'opinione pubblica di attenzione anche a quello che si mangia, non solo, ma anche a quello che si respira in generale, cioè una maggiore attenzione alla relazione tra ambiente e salute, suggerisce anche per quella che è una declinazione anche salutistica dei prodotti agroalimentari, un interesse verso questi. Chiaro, gli ultimi accadimenti non aiutano, ma forse sono elementi che incrociano prodotti tradizionali con nuove esigenze di consumo e aprono nuovi mercati. L'altro pianeta. Ed eccoci di nuovo insieme in studio per la consueta intervista di Cristina Carpinelli, che questa settimana ci porta in montagna. L'interno L'intervista di oggi è a Davide Peron, un musicista che da 4 anni in estate va in tour. Un tour particolare perché chitarra in spalla, seguito dai suoi musicisti, Davide percorre sentieri di montagna e di rifugio in rifugio porta la sua musica. Come nasce, Davide, sotto quale spinta l'idea di una tournée tra i monti delle Piccole Dolomiti? L'idea è stata abbastanza semplice perché io abito in un paesino ai piedi di un monte, no? E quindi il monte è sempre stata una parte attiva nella mia vita e per tante cose che si fanno, eccetera. Poi da quando ho iniziato a scrivere canzoni e così, e un giorno mi è venuta in mente, ma perché non ci porto anche le mie canzoni in questi monti, così tanto cari a me? C'è paura, se si cerca paura, non c'è più il male. E così è nata questa avventura che è tanto bella e tanta soddisfazione ci sta portando sia noi come musicisti che ruotiamo attorno a questa cosa, sia ai rifugi e a tutti i gestori meravigliosi dei rifugi qui, che si trovano a condividere tutta questa avventura. Ecco, la tua in particolare idea è quella di attraversare camminando i rifugi di montagna e lì poi fermarsi a fare musica. È forse il massimo dal punto di vista dell'ecosostenibilità, ma anche del sogno, diciamo, perché si incontrano la montagna e la musica. Le persone vengono colte di sorpresa, come reagiscono a questa tua iniziativa? Guarda, la montagna è fatta anche di fatica. Io in questa cosa ci credo e credo che la fatica sia una cosa che si sta anche un po' perdendo, perché poi la fatica ti porta alla soddisfazione che è maggiore se non facendo fatica. Non so se mi sono spiegato bene. E quando si cammina assieme alle persone con la chitarra in spalle, si condivide. Prima del concerto si condivide chi siamo come persone, sia proprio come persone normalissime, no? Che vanno in montagna e fanno fatica uguale a tutti gli altri, si diventa uguali tutti assieme e la musica poi è un contorno che si fa perché prima di tutto c'è l'incontro, quello vero. Raccontaci qual è la zona nella quale fai partire quest'estate Mi Rifugio in Tour. Beh, la zona sono le Piccole Dolomiti, sono la zona dell'Alto Vicentino fino ad arrivare ad Asiago. Quest'anno iniziamo anche a fare tutte le tappe per la Grande Guerra in preparazione anche al 2015, il rifugio Papa nel Pasubio, l'anno prossimo andremo anche al Monte Grappa, quest'anno ci fermiamo anche ad Asiago e sono tutte quelle tappe che sono di cornice ai miei posti, ai miei luoghi, e si prende la chitarra e si va. E ci sono tantissimi altri tuoi colleghi musicisti che ti stanno cominciando a seguire in questa avventura? Sì, ho chiesto che questa fatica sia condivisa proprio per condividere, no? Perché le gioie poi vanno anche condivise. E sto vedendo che tanti miei amici musicisti ci credono e mi accompagnano ben volentieri. Ce ne sono tanti anche di bravissimi, perché la musica in montagna sarà per l'altitudine, ma si avvicina molto alla poesia. Senti, questo è un programma che si occupa di ambiente, si occupa di sostenibilità e tratta sempre temi che hanno a che fare con il rispetto della terra. Se tu dovessi dare un'immagine della terra, come la vedresti? Ma guarda, io la terra la vedo di tutti i colori che ho conosciuto, per fortuna. Il fatto della sostenibilità, dell'ecosostenibilità, il fatto che si cammina per arrivare nei rifugi, il fatto che i partner sono scelti non perché sono un partner, ma perché hanno una loro filosofia sull'ecosostenibilità, sul fatto del rispetto della natura, il fatto che si va nei rifugi e si mangiano tutti i prodotti fatti in loco, i formaggi fatti con le mucche che mangiano l'erba dei rifugi, secondo me è un ritorno ad essere umani, perché credo che in questo periodo qua l'internet e tutte quelle cose di plastica, no? Ci stanno un po' anche allontanando da queste cose vive. Guarda, io scrivo di quello che vivo, non c'è un motivo particolare, ma basta anche solo un incontro, un occhio che mi guarda, una foglia che cade, sono come una spugna, no? Qualunque cosa mi stupisce, e per fortuna ce ne sono tante, scrivo. Quest'anno c'è la particolarità, perché quest'anno per autunno vado ad incidere il nuovo disco, no? Il nuovo album, e questo tour mi servirà per, assieme ai miei musicisti, trovare la giusta forma delle nuove canzoni, canzoni che ci sono già ma che hanno bisogno di prendere la giusta forma, e userò questi rifugi, questi monti, queste camminate, questi incontri per strutturarli in modo, nel miglior modo possibile, ecco. Ed eccoci al momento dell'altra nostra rubrica settimanale, quella che abbiamo intitolato Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo oggi in collegamento con noi la Presidente d'Italia Nostra, Alessandra Mottola Molfino. Buongiorno Presidente. Buongiorno Marco, ecco, Carminati. Per lei è la prima volta, ma so che starà con noi per parecchie puntate. Questo ci fa veramente onore, perché voi di Italia Nostra siete davvero delle sentinelle che vigilano sullo stato ambientale del nostro paese, sullo stato storico-artistico, con una particolare attenzione, anche perché siete diramati su tutto il territorio. E quindi con lei faremo davvero un bel giro per l'Italia, a vedere delle cose belle ma anche delle cose in pericolo. Oggi ci porta in un luogo magico, davvero magico, cioè il grande delta del Po. Presidente, ci descriva questa sorta di paradiso terrestre. È veramente un luogo eccezionale, il delta fluviale più bello d'Europa, uno dei più grandi del Mediterraneo, anzi il più grande del Mediterraneo, un territorio immenso, diviso in due parchi regionali. Quello del Veneto occupa 786 chilometri quadrati e quello dell'Emilia-Romagna 536 chilometri quadrati. Noi di Italia Nostra vorremmo che qui si facesse un parco nazionale. Più nazionale del Delta del Po non credo che ci sia. Ma quali sono, diciamo così, le caratteristiche ambientali specifiche di questa grande area? Che cosa si può vedere, che cosa si può ammirare in questo posto? Sì, come dicevo, un territorio immenso che va dall'Adige alle Terre degli Estensi, da Chioggia a Comacchio con il Bosco della Mesola, il Po di Goro, il Po della Pila, il Po delle Tolle. E non so, nasce il mito greco di Fetonte qui caduto col carro proprio alla foce dell'Eridano, del Po, che testimonia questo mito la presenza dei greci e la via dell'Ambra che andava verso il nord Europa. Ci sono sei grandi rami del fiume con piante e biodiversità che va dalle canne al convolvolo, al ninfea, ai ranuncoli, alle felci, alle valli da pesca, agli uccelli selvatici, tantissime specie di uccelli selvatici, allevamenti di pesce e di molluschi, un'agricoltura molto specifica, tante isole circondate da spiagge bianchissime. Insomma, un posto veramente da visitare, perché sì, riserva sono, tutta sono questa... Sono molto ben organizzati i due parchi. Certo. Si possono fare delle visite con le barche, anche con il fuoristrada, si può andare a piedi, si può andare in canoa. Sono certo. Veramente ci sono alberghi, ristoranti, è molto attrezzatissimo. Ma c'è un però, quando gli amici di Italia Nostra hanno così tanto a cuore questi luoghi così belli, è anche perché qualcosa di pericoloso incombe su di essi. Allora, Presidente, che cosa incombe su questo bellissimo luogo d'Italia? Sì, proprio al centro della punta finale del delta, nell'isola di Polesine Camerini, tra il Po della Pila e il Po delle Tolle, c'è una enorme centrale dell'Enel all'ingresso proprio del Po della Pila, costruita tra il 1980 e il 1984. Recentemente il Consiglio di Stato ci ha dato ragione su questa centrale, perché dopo tanti anni che la centrale inquinava con il consumo di idrocarburi e gravi inquinamenti sia alle acque che all'aria, il Consiglio di Stato ha detto che vale ancora l'articolo della legge del Veneto numero 36 del 1997, che dice che nell'ambito del parco del Delta del Po gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano, o altre fonti alternative. Invece l'Enel, secondo noi, improvvidamente ha deciso di cambiare l'alimentazione della centrale e fare una centrale a carbone cosiddetto pulito, ma il carbone pulito emette, oltre a molta più diossina di prima e metalli pesanti, molta più anidride solforosa, azoto, particolato, anidride carbonica, e quindi perché non avvalersi invece, suggeriamo noi, del grande terminale gasifero che sta fuori al largo di Porto Tolle, nell'Adriatico, che raduna il gas. Certo. E quindi potrebbero usare quello invece del carbone pulito, cosiddetto pulito tra virgolette, che pulito non è. Insomma, voi d'Italia Nostra avete coraggio perché appunto date consigli a un grande colosso come l'Enel, naturalmente toccando un non tema molto... Non ne vuole sapere l'Enel. Ah, non ne vuole sapere dei vostri consigli. Beh, insomma, però voi continuate giustamente in questa battaglia di sensibilizzazione, perché è chiaro che le esigenze dell'energia, che sono delle esigenze assolutamente necessarie, debbano, soprattutto in luoghi così particolari, anche tener conto della biodiversità e del paradiso terrestre che sta intorno. Cara Presidente, io la ringrazio molto di questa sua partecipazione. Grazie a voi. E grazie agli ascoltatori. È tutto anche per questa puntata. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altropianeta@radio24.it oppure laura.bettini@radio24.it.